Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E l'eclettica del venerdì sera, un'eclettica di piena estate. Giulio Caperdoni che vi accompagna magari nel viaggio che avete iniziato per un weekend, oppure vi accompagna nei giorni vostri di vacanza già effettiva, lunga vacanza, non solo per un fine settimana. Quindi state ascoltando da posti diversi rispetto a quelli che vi vedono all'ascolto di questa trasmissione. Giulio Caperdoni, Giulio è radiorockfm.com, myspace.com/eclettica. Vi ricordo anche il nuovo sito www.radiorockfm.com e a questo punto io sono pronto a partire. Originariamente ballavo al Jewel Club a Chicago per Ned Small. Ned era un commerciante accorto che accumulò tutti i suoi soldi facendo quello che noi chiameremmo oggi rubare. Naturalmente in quei tempi era diverso, sì signore. Ned aveva un grande fascino, cose che oggi non si vedono più. Era famoso perché ti rompeva tutte e due le gambe se non eri d'accordo con lui. E ne era capace anche, ragazzi. Ruppe tante di quelle gambe. Direi che 15 o 16 gambe alla settimana era la sua media. Ma Ned mi voleva bene, forse perché gli dicevo sempre in faccia quello che pensavo di lui. «Ned!» gli dissi una volta a cena. «Sei un melliflo truffatore con la morale di un gatto randagio!» Rise, ma più tardi quella sera vidi che stava cercando la parola «mellifluo» nel dizionario. Comunque, come dicevo, ballavo al Jewel Club di Ned Small. Ero la sua migliore ballerina, ragazzi. Una ballerina attrice. Le altre ragazze si dimenavano solo, ma io danzavo una vera storia, tipo Venere che esce dal bagno, solo che è all'angolo fra Broadway e la 42esima, e lei va al nightclub e balla fino all'alba, poi gli viene una trombosi coronarica e perde il controllo dei muscoli facciali di sinistra. Roba triste, ragazzi. E per quello che mi rispettavano. Questo era l'incipit di Tempi felici, ricordi della tolleranza, da citarsi addosso, di Woody Allen. Yeah. Sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules, rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent, others can be broken. Understand? Then hit me, if you can. Met a mystic man with an evil stare. Said I'm the wicked one, I'm quite aware. I lost my nerve, I said, don't despair. My evil son, time to prepare. Just begun. Questa è la musica di Eclettica, come quella dei due brani che vi siete ascoltati o come quello che sta per arrivare. Questa è la musica di Eclettica, così varia, così diversa, per giustificare ovviamente anche il nome della trasmissione. Per fare un po' d'ordine abbiamo aperto con i Falls, nuovissima band che proviene dalla città di Brighton. Sentite un po' come li descrive la casa discografica. Suonano come se delle pulci facessero del rock and roll su una vecchia tastiera. Abbastanza strana come descrizione. Quintetto che tiene le chitarre molto alte, ha un taglio di capelli piuttosto radicale e fa della musica come quella che vi siete ascoltati in apertura di Eclettica di quest'oggi. Abbiamo poi proseguito con una band californiana che invece guarda molto indietro, guarda molto nel suo passato, e basta guardare le foto all'interno del loro disco per averne una conferma. Poi quando parte l'ascolto dei brani se ne ha una ulteriore. Chautauqua è il titolo dell'album, che è uscito qualche mese fa in primavera, ma io me ne sono accorto solo ora, da parte dei californiani The Willows, con la Z finale, non con la S. Comunque c'è sempre la playlist per avere un riscontro preciso di come vengono scritti i nomi dei gruppi. Per passare poi ai Frog Eyes, che ci stiamo per ascoltare con il brano che da qualche settimana ci sta tenendo compagnia all'interno di Eclettica. Un giorno Ned Small mi chiama in ufficio e dice: Flo. Mi chiamava sempre Flo, salvo quando si infuriava con me. Allora mi chiamava Albert Schneiderman. Non ho mai capito perché. Diciamo che il cuore segue delle ragioni che la ragione non conosce. Allora Ned dice: Flo, voglio che tu mi sposi. Beh, avrebbe potuto buttarmi giù con una piuma. Ho cominciato a piangere come una neonata. Dico sul serio, Flo, dice lui. Ti amo profondamente. Non è facile per me dire queste cose, ma voglio che tu sia la madre dei miei figli. E se non ci stai, ti rompo entrambe le gambe. Due giorni dopo, Ned ed io ci scambiavamo l'anello. Tre giorni dopo, Ned fu crivellato di colpi per aver rovesciato dell'uvetta nel cappello di Al Capone. Dopodiché, naturalmente, ero ricca. La prima cosa che feci fu di comprare per mamma e papà quella fattoria di cui parlavano sempre. Loro sostenevano che non avevano mai parlato di una fattoria e che in verità volevano una macchina e delle pellicce, ma decisero di provare. La vita rustica gli piacque, anche se papà fu colpito da un fulmine nel campo e dopo, per 6 anni, quando gli si chiedeva il nome, poteva solo rispondere Kleenex. Quanto a me, 3 mesi più tardi ero sul lastrico. Speculazioni sbagliate. Sul consiglio di amici interessati, avevo finanziato una spedizione di caccia alle balene a Cincinnati. Ballavo per Big Ed Wheeler, che faceva whisky di contrabbando, così forte che si poteva berlo solo con una cannuccia attraverso una maschera antigas. Mi pagava $300 la settimana per fare 10 spettacoli, che in quei tempi erano molti soldi. Diavolo, con le mance ho guadagnato più del presidente Hoover. E lui doveva fare 11 spettacoli. I miei erano dalle 9 alle 11 e quelli di Hoover dalle 10 alle 2. Hoover era un buon presidente, ma passava il suo tempo nel camerino cantando a bocca chiusa. Mi faceva impazzire. Questo era ancora tempi felici, ricordi della tolleranza, da citarsi addosso di Woody Allen. Apart. hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it. È ufficiale, le Hazel Ray non ci sono più, ora le carriere soliste sono carriere soliste a tutti gli effetti, quindi non più side project. Su Rock FM vi siete appena ascoltati le Art in Manila, e questo è il nome della formazione dalla quale abbiamo appena sentito la canzone intitolata The Abomination. Prima parte di Eclectic che si chiude, vi ricordo che dopo la pubblicità ci sarà la seconda in compagnia di Giulio Caperdoni, che si chiude con il nuovo dei You Say Party, We Say Die, ovvero sia Monster.